Oh, madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Sono Parenzo. Pentiti Parenzo, pentiti dallo spirito di Rom, dei ladri che entrano in casa, di Asmodeo, pentiti Parenzo. Ti devi spaventare, ti devi spaventare. Sei Asmodeo, sei. Amico mio, Cruciani, Parenzo Segaiolo! Ma come si fa a mandare in onda questo schifo? Come si fa? Io a 29 anni ogni tanto vado a fare dei weekend nell'est Europa e a 29 anni prendo la pillola perché me ne voglio scopare 4 o 5 al giorno. Parenzo, miserabile questo Francesco della provincia di Teramo? Sicuramente è un maiale, sicuramente è un pervertito. Ma non è un maiale! Sei Asmodeo, sei. Io ho scoperto nel weekend, caro Davide, chi è il signor Asmodeo. Bastava Asmodeo che me lo chiedessi e te l'avrei detto. Non lo sapevo, è perché demone, una cosa, è un demone della cultura ebraica, peraltro. Esatto. Che c'è, è un demone, un diavolo, un demone del sesso. Un demone del sesso. Sì, se sì, tu sì, hai un sì problema, soprattutto, non solo. Davide, come tu sai, Davide, anzi il re Davide, ha combattuto contro. Comunque, non penso che sia di cioè, questo tu che mi vuoi stai parlare. Dicendo che tu hai combattuto con l'Asmodeo. Re Davide, vabbè, come diciamo tu sai, Davide, che ti frega. No, re Davide è un'altra cosa. Se vuoi, possiamo sentire il rabbino per l'esattezza. Questo però, insomma, potrebbe essere un'idea, potrebbe sì, essere un'idea. Sì, io vorrei iniziare però con una voce pacata, con una voce sì riflessiva, sì, con una voce molto, direi, rotonda, non di quelle aguzze che sentiamo di solito noi, con una voce che invita alla moderazione, bene, una voce che invita alla fratellanza, soprattutto nel calcio, sai, il calcio ha bisogno, e ci sono tanti scontri, tante contrapposizioni, ha bisogno sì di voci di solidarietà. Rasserenanti esatto, anche, sì, che non creino sì, esatto, che non scompiglio, creino frizioni, che non creino scontri tra tifosi. Sì. Ieri è andato tutto bene, durante la partita. Meno male. Napoli-Juventus, che era molto attesa, e sentiamo la voce di questa tifosa, perché è una tifosa che come dire, invita alla riflessione. Sì. Irenica, irenica. No, sì, irenica, non esageriamo, però invita alla riflessione, invita allo spirito di appartenenza sì comune ad una stessa nazione, ad uno stesso popolo. Vediamo, una vediamo tifosa del Napoli, ma ti assicuro, è una veramente, direi quasi un esempio. Sentiamo. Sentiamo. Signore, o non lo so, per quello che ha fatto per noi, ha portato il Napoli comunque in alto, però si è venduto tutto dopo l'azione che ha fatto, no? Ma è perché è andato alla Juve oppure? Io te l'ho detto, la Juve la odio, devono fare la morte degli ebrei. Ah, ecco, il corno crematorio. Scusami. Gli juventini devono fare la fine degli ebrei, anzi, ecco, scusami, la morte degli ebrei. Ecco, la morte ho bene degli allora ebrei. Ho sentito bene. La morte allora nei forni. Sì. Devono fare così la morte. Del, tra l'altro, non manco sì a dire la fine. La morte degli ebrei. Un sì contributo abbiamo voluto dare, ma pacato. Bravo. Io che diciamo, a questo lunedì sì post partita. Un bel inizio diciamo, mai no fatto, mi hai regalato. Ottimo, una tifosa un bel del Napoli, una tifosa del sì Napoli. Juventini come gli ebrei ai forni. Però ragazzi, il weekend è stato segnato dalla vicenda di Budrio. La vicenda di Budrio, dove un barista vicino a Bologna, un barista è stato ucciso sì dopo una colluttazione. Io sì dico solo una cosa, sì, sì, se sì questo barista, se questo barista avesse avuto, se questo barista avesse avuto una pistola, un'arma, invece di fare una colluttazione forse con il signor vivo, rapinatore, non lo so, questo non si forse può sapere. Sì. Però magari sparava in fronte a questo signore e sarebbe stato magari messo sotto processo da quelli come te, Parenzo, da quelli che intendono la difesa personale optional. No, se furbetto. Questo signore di Budrio, no, questo barista, giovane, no, giovane bel Pietro della radio, no, che c'entra bel Pietro? Amico, giovane bel Pietro della radio, che sei tu. Allora? Non mi infilzi come un Librandi qualunque o come un Cecchi Paone qualunque. No, no, no, caro il mio bel Pietro di dalla vostra radio, questa qui è dalla vostra radio, non è dalla vostra parte. No, non mi infilzi. Perché? Non mi Perché? Trascini Perché? In una polemica nella quale poi chiama uno stronzo Roberto da Terni, minchione da Canicattì, cucucù da Bergamo Alta. Allora Parenzo, cosa di... No, non mi trascini in una polemica simile, non mi trascini. E allora rispondi, scusa. Non mi... No, ho detto che non mi trascini. Non mi trascini. Beh, perché il comune... Non vuoi parlare di Budrio. Il comune di Budrio, no, ottimo, il comune di Budrio peraltro 3 anni fa, come tu sai, diventò un modello quel comune per far partecipare la popolazione alla lotta alla criminalità, ma senza l'uso, senza la diffusione delle armi. Avrai letto sicuramente sulla Repubblica oggi questa straordinaria inchiesta in cui la gente dice: diamo l'esempio, non useremo le armi. Questo è anche il comune di Budrio. Probabilmente con un fucile o con un'arma. Dalla vostra radio, caro per Pietro Cruciani, non mi trascini in questa roba. Un rapinatore in meno, ecco, un rapinatore in meno e via con la ed un barista in più. Sì. Colleghiamoci con Budrio e allora via, apri, colleghiamoci con Budrio. Maledetto Parenzo ha detto che ha fatto bene a morire il barista. No, non ha mai detto nulla di tutto Salvini, ciò. Salvini, sentiamo il signor Salvini. Sentiamo Salvini, ecco, giusto per buttare altra benza. Reintrodurre, come stanno facendo in Svezia, nella pacifica Svezia, 6 mesi di servizio militare, servizio civile obbligatorio per i nostri ragazzi, che imparino il rispetto con nozioni di pronto soccorso e protezione civile e che imparino a usare un'arma. Il catechismo della Chiesa Cattolica, attualmente in vigore, riprende le parole di San Tommaso d'Aquino e al passaggio 22:64, me lo sono scritto, chi difende la propria vita non è colpevole di omicidio, perché qua siamo alla follia. Ma chi difende la propria vita, non la propria roba? Se muore un rapinatore, devo dire che mi spiace, non mi spiace. Se fai l'operaio e non il rapinatore, eviti di morire. Se la notte invece di andare a rapinare un bar, stai a casa con i tuoi figli, eviti di morire. Allora, il giudice Mascolo, quello di Treviso, che forse sarà spostato per le sue affermazioni sulle armi, incredibile, uno viene spostato perché dice che bisogna armarsi, pazzesco. Giudice Mascolo dice che quello di Budrio però doveva alzare le mani, cioè doveva scendere giù, cioè comunque doveva scendere giù, adesso non so se era, no, era lì al bar. E doveva alzare le mani invece non di aggredire. No, però tu devi avere il coraggio di dire che questo signore probabilmente se avesse alzato le mani, ma ti pare se che si fosse arreso davanti al rapino, no, ma è una... Che ma non posso dirlo. Perché? Ma non sarei, non sono così se stupido da dire addosso, che cosa, poveretto, se non fosse già è morto, la moglie ha una sofferenza pazzesca, devo dire cosa avrebbe dovuto fare. Ma intanto il giudice Mascolo lo dice, senti, il giudice dico che quel povero disgraziato di Budrio doveva alzare le mani, perché io ho fatto il commissario di polizia, ho fatto l'ufficiale di finanza, ho fatto diversi mestieri e tutte le volte che ho trovato degli istruttori ancora 30 anni fa, 35 anni fa, ci dicevano: ragazzi, quando vi puntano la pistola contro, alzate le mani, perché non, i film sono delle robe che non esistono. In tutto questo interviene un assessore milanese del Partito Democratico, una tale Rozza, che dice: certo, se Carmela ci armiamo Rozza, tutti, una tale Rozza, non è che no, la gente la conosce in Italia, la gente non Carmela conosce Carmela Rozza, ma bravissima, la gente una persona non la molto conosce. Per bene, io la sto presentando una al grande pubblico. Una tale Rozza, una tale Rozza, un tal bel Pietro, non lo dici? Una no, tale bel Pietro Rozza, lo conoscono anche un a Canicattini, tal Poletti l'inviato di Rozza, Rozza, cioè, se Rozza. Ci armiamo tutti ci ammazziamo tutti, è una puttanata questa, è una stronzata. Qui il tema non è che ci armiamo e spariamo, perché se no facciamo un bel situazione dove tutti ci ammazziamo ci non credo che ci sentiamo più sicuri. Quando sento il traffico divento pazzo! Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presento La Zanzara. Go! Ragazzi, è semplice. Se volete parlare delle vostre vecchie esperienze da criminale appartenente a una banda armata, o volete parlare delle vostre attuali esperienze da pappone, o volete mandare a cagare parenti in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlare del culo chiacchierato di Parenzo, o volete farvi esorcizzare da un prete che ha la voce del cavaliere Auriemma, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al culattop. Allora ragazzi, la Boldrini ne ha combinata questo è un genio. La Boldrini ne ha combinata un'altra delle sue. Adesso io sono sicuro che Parenzo invece su questa cosa, pur essendo ogni tanto critico nei confronti della Boldrini, su questa cosa la appoggerà. Io sono quasi certo che la appoggerà. Indovinate perché? Sentite, sentite. Allora, la Boldrini ha scritto un'altra volta a Zuckerberg. Adesso basta, però. Non se ne può più. Cioè, la Boldrini scrive a Zuckerberg. Vabbè, cioè, ma a secondo, terza carica dello ma Stato, secondo te, Zuckerberg ha tempo da perdere per rispondere alla Boldrini? È la terza carica ma dello Stato. Ma non me ne frega dell'Italia. Cioè, noi gliene, a Zuckerberg non gliene fotte. Possiamo non dire. Sì, ma lo possiamo dire a Zuckerberg non gliene fotte un cazzo di può quello che scrive la Boldrini. No, ma diamolo per certo. Io lo darei per certo al signor Zuckerberg. Diciamo così, a Zuckerberg interessa. Interessa la Boldrini quanto a me interessa Mauro da Mantova, allo stesso livello, mettiamolo. Beh, così. No, perché tra voi due c'è un'interazione. Nessuno. Qui alla radio ogni tanto tra Zuckerberg e la Boldrini. È d'accordo, tua. Ma Zuckerberg e la Boldrini no, perché siccome le lettere manco le legge. Le leggerà il sottoposto in quarta il quarto, quinto vabbè. Sottoposto del signor Zuckerberg, capito? Comunque, la Boldrini scrive al signor Facebook, lo sai perché cosa? Perché bisogna chiudere le pagine che inneggiano al fascismo. Sì, ottimo, ha ragione. Ma ottimo un cazzo! Giusto. Ma ottimo un cazzo. Lo faccia subito. Peraltro Zuckerberg, che allora, di religione ebraica, dice, dovrebbe anche dice essere la Boldrini, sensibile a questa da cosa. Noi l'apologia di fascismo è un reato, esatto, e chiede di oscurare le pagine che inneggiano al fascismo. Applicare la legge anche qui sulla rete. C'è certo, una bravo. Grande battaglia di libertà bravo. Da fare. No, non c'è nessuna battaglia di libertà, c'è una legge da rispettare. No, fine. Non rompete i coglioni. Chiusi, manda il traffico. Ma chiuso. Che manda il traffico? No, non c'è nessuna battaglia libertà da rispettare. Libertà di parola anche nessuna. Per i fascisti, anche per i fascisti su Facebook. Ma non me ne frega un cazzo. Denunciassero, non c'è bisogno di oscurare. Se, grande libertà, se uno poi vuole portare in tribunale le persone, libertà, libertà. Che mi volete far sentire voi dall'altra parte? Rompere i coglioni. Vai, la Boldrini, che c'è l'audio della Boldrini pure su sta roba. Ha parlato pure su sta roba. Manco ha scritto Zuckerberg, ha pure parlato. E facciamola parlare. Va. Allora, qui noi abbiamo una apologia di fascismo, da noi è un reato. Perché queste pagine, dopo che l'AMPI ha più e più volte segnalato la gli inaccettabili contenuti di queste pagine, perché non vengono chiusi? Io nella lettera che ho mandato a Zuckerberg ho chiesto a lui stesso perché questo non accade. Ma ti rendi conto? Mi pare o no? Perfetto. Ti rendi conto o no? Mi pare ti rendi perfetto conto o no? In osservanza alle leggi del nostro paese. Ma è pieno, che ma recentemente i signori di Google hanno detto: noi non possiamo impedire a gente che inneggia l'Olocausto di pubblicare le loro robe su Google, per esempio. Ma hanno ragione! Anche i pazzi hanno diritto di essere ospitati, anche quelli che pensano delle cose terribili, perché è il modo migliore per farli venire allo scoperto. Non capiscono un cazzo allora, questi censori. Nel nostro paese non c'è mi interessa una legge. Chi vuole non denunciare. Le persone, se uno vuole denunciare che ne so, denuncia il nostro Google, amico allora quello di Facebook. No, che c'entra Facebook? Se uno vuole denunciare quel tizio là, quel ristoratore che noi chiamiamo ogni tanto, quello che va in giro con la camicia nera eccetera, se uno lo vuole denunciare per l'apologia di fascismo, che è una fatto. Cosa vecchia che andrebbe abolita, è tra stato l'altro. Già fatto. Ma non mi interessa, lo facciano. Non l'abbiamo già fatto con l'avvocato Trucco, abbiamo già depositato va, la figurati, querela. Ma figurati, te lo dico io. Marco da Milano, vai Marco. Vai Marco. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento, vai, dimmi sì, Marco. Buonasera, dimmi. Allora volevo dire due cose. Sì. Sì, però vai, prima, amico mio, forza, vai. Vai, tre ore. È che Cruciani senza Parenzo, lì, qui, chiudi bottega in due, tre vabbè, giorni. Ma quello perché... sono cazzi nostri, amico mio. Quindi, vai avanti. No, quindi dico a Parenzo che oltre al Sole 24 Ore si deve dare uno stipendio anche da te, minimo. Sì, può darsi, glielo do già sotto banco, non ti preoccupare, in nero glielo do. Non beh, ti preoccupare. Nero, okay. Si dice così, 1000 euro in nero. No, non mi interessa. 1000 euro in nero. Io, allora. Vai, Marco, dimmi. Allora, io faccio parte della maggioranza silenziosa. Sì, tu fai parte della maggioranza che per adesso non dice un cazzo, però soprattutto. No, è una cosa molto, molto, molto grande. Allora, venerdì ha chiamato un ex carcerato. Sì. Ecco, tu mi sembri abbastanza eccitato, tutto bagnato, e tu noi vogliamo bene a queste persone, giusto? Ma non lo so, non mi interessa. Allora, cosa hai da dire, Marco? Cosa hai da dire? Cosa? Da dire che se era Rome non gli volevi bene, gli sparavi in fronte. Se ti entrava in casa. Invece io non ho mai italiano... sparato in fronte a nessuno. Cioè, non ho mai sparato in fronte a nessuno. Sparare se uno entra dentro casa mia. Inciti le persone a sparare. Io non incito nessuno a sparare. Allora, lo devi dire anche degli italiani, se sono criminali italiani. Io no, ma certo, ma che differenza fa? Devi dire ti vogliamo bene, devi dire sei un pezzo di merda. Ma cosa c'entra? Ma quello è stato in galera, ma che me ne frega a me? È andato in galera perché non gli hanno sparato. Ma è stato tanti anni fa è successo. Se sparava, non andava in galera. Ma se all'epoca ha fatto pagare quello che ha fatto 22 anni se all'epoca io privato sì. E qui ho detto tutto. Ciao. Se all'epoca qualcuno gli avesse sparato, io avrei detto hanno fatto benissimo a sparare a quel signore che ci ha chiamato venerdì e che era un rapinatore, ha fatto il rapinatore tanti anni. Fabio da Parma, vai. Ciao ragazzi, io volevo intervenire su quello che è successo a Budrio sabato notte. Io mi domando, ma come cazzo fai se non sei neanche armato a scagliarti contro uno che ha una pistola e un fucile? Per me bisogna essere fuori di testa. Adesso mi dispiace allora, il per morto, quel povero uomo. Fabio, stai dicendo che il morto è fuori di testa? Cioè, ti rendi conto o no? Cioè, no, io non... Stai dicendo che ha sbagliato a reagire, allora, ha sbagliato a reagire. Tutti col senno di poi, naturalmente. Esatto, quello è morto. Infatti, quello ma no, è non è questione logica. Di senno di poi. Ma ascoltatemi un po', ragazzi, ma io penso che in una situazione del genere la minima cosa è intanto non farsi prendere dal panico. Quindi ragiona un attimo. Ma per quello che hai, ma per quello che puoi aver avuto in tasca, cioè in cassa quel povero signore lì. Ma cosa vai a rischiare con della gente anche nel locale? Ma santissimo Dio! No, ma io capisco questo ragionamento, adesso, Fabio. Adesso, io mi col sono senno di poi. A dire è fuori di testa. No, ma lascia perdere. Fabio, la cosa fondamentale è questa. Tu stai dicendo che, sempre col senno di poi, naturalmente, che quello avrebbe fatto bene ad alzare le mani, in sostanza, no? Alzare secondo le mani. Secondo me sì, secondo me dovrebbe avuto collaborare, paradossalmente. Ma se uno pensa che il bene più prezioso sia quello che ha guadagnato durante la giornata, gli sta sui coglioni, ragazzi, che, non, che gli ragazzi, sta sui coglioni, che un tizio... Conto, ma ascolta già, Giuseppe, ma dimmi. Quanto aveva in cassa questo? Non lo so, non ho la minima idea. Allora, parliamo di poche decine di euro, neanche migliaia di euro. Mm. Ti pare normale a fronte di una giornata di lavoro perdere la vita? Poi in una situazione così nettamente sfavorevole? Sì, ma non con si può. La gente lì, sì, ho capito, santo. Fabio, però cosa non è che col santo? Senno di poi. No, vabbè, ma non si può dire. No, allora, ragazzi, adesso col senno di poi va bene. Io sono aiutato perché lo dico dopo. Però voglio dire, un po' di testa, pare, ragazzi, tra l'altro, vuole, Fabio. Mi dispiace dirlo. Ma non mi la testa. Dirlo. Sei stato mai aggredito da qualcuno? Quale testa? Questo qua si è difeso. È giusto perché quello c'aveva la pistola. No, poi... no, questo non si è difeso. Sì. Beppe. Questo ha difeso dei soldi. È un'altra ma cosa. Cosa c'entra? Dai, ma non diciamo corbellerie. Ma che ne sai un che voleva fare? Che ne sai? Allora, un conto che ne sai che ha difeso rossa? Solo i soldi? Ascoltami bene. Sì. Io ho moglie e due figli. Se qualcuno venisse a prendermi o a chiedermi il bancomat, io me lo faccio spesso questa domanda. Se mi venisse a chiedere dei soldi, io gli do la macchina, non mi fa questo, non mi tocca. Ma tu gli dai la macchina, va bene, ok, ma io ti sto dicendo come fai a mettere a repentaglio la tua vita. Ma tu fai così, vita... altre persone pensano che sia insopportabile l'idea di subire una rapina dentro la propria casa, dentro il proprio bar. È insopportabile l'idea, davanti ad uno arrogante che pare che sia tra l'altro Igor il Russo, ex militare dell'Armata Rossa, che è stato riconosciuto dall'identikit, dunque certamente non un agnellino. Di fronte a questo sopruso uno reagisce anche distinto. Io lo capisco perfettamente, lo capisco perfettamente. A dopo. Tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Cattiva! Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3, trentodoc.com. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Munnez, parlate di Pucchiac! Zingara, che cazzo vuoi? Io so che cosa fai. Allora, buonasera a tutti. Stanotte mi sono entrati nel garage e hanno rubato tutto. Biciclette dei miei bambini, i miei strumenti musicali, sono stati rom. Grazie a tutti, che poteste bruciare all'inferno, bastardi topi di fogna che non servite a un cazzo. Siete ancora qui, è colpa dei buonisti. Ma noi ci rendiamo conto, cioè parliamo di un discorso fondamentale. Uno è venuto ad occupare casa mia, lo Stato immediatamente deve intervenire. Scusatemi, perché lo Stato interviene quando dei cittadini protestano contro il TAP, contro la TAV, cioè mandano l'esercito per combattere contro i cittadini italiani? Cittadini italiani che con le loro tasse pagano quell'esercito e dall'esercito vengono caricati perché non vogliono che gli costruiscono lì quelle oscenità. E poi quando chiami di nuovo l'esercito per venire a liberare la tua proprietà occupata abusivamente, non viene nessuno. Ditemi voi che cosa bisogna fare in Italia. Caro amico mio, ogni tanto la pancia del paese vero, del paese che lavora, del paese che non va a Cortina, del paese che non va alle Terme di Siena, il paese che non si diverte al quartiere Prati. Sì. Non si diverte al quartiere Qualcosa Prati. Qualcosa mi dice che in tutte queste cose che fai c'è un vago riferimento al sottoscritto. Qualcosa mi dice. È qualcosa. L'Italia reale, quella che lavora quotidianamente. Non va, reale è non di va a trovare i manager delle televisioni, ai vari bar, i bar settembrini, i bar dove si fa colazione a Roma. È l'Italia vera, vera, vera. Miserabile, tu miserabile, di che cosa parli? Allora, i rom gli occupano la masseria e Luigi Rom, viene. Ma guarda, ma guarda, sì, ma i rom gli occupano la masseria. C'è un attentato a Mosca e per non lui che ce ne frega dell'attentato a Mosca. I rom occupano la masseria. I nani, i rom dalla vostra radio è questa, no? dalla vostra radio. San Pietroburgo. Ti è piaciuta la cosa? Esplode un metro. 10 morti, decine di feriti. Si parla di terrorismo, bisogna ricercare. I rom gli occupano la masseria e Luigi li avete visti? Eh sì, ne abbiamo visti a volte. Dalla vostra parte i rom, bel Pietro, ma dai su. I rom gli occupano la masseria e Luigi viene abbandonato dallo Stato. L'abbiamo già sentito, Luigi, abbiamo sentito i rom. Quella è casa mia, io ci pago le tasse, ma da mesi i rom l'hanno occupata. E sai che cosa dice il sindaco Perrone? Questa è una storia che veramente mi fa incazzare. Ti fa capire come questo paese sia veramente un paese quasi recuperabile, un paese di merda. Perché se c'è una masseria occupata dai signori rom e non c'è nessuno che va lì pacificamente, a manifestare ogni giorno davanti a questa masseria in modo pacifico, certo, con le braccia alzate, pacifico, però circondando la masseria, va circondata quella masseria, sì, come benissimo. Simbolo della burocrazia inefficiente di questo paese, di come le forze dell'ordine, la prefettura, i sindaci, quando non ci sono cose che interessano i loro signori, non si muovono. Questo è un poveraccio di 73 anni, il signor Luigi, che ha una masseria occupata. È inutile che dici, perché una volta me l'hai detto, quello è un rudere. Una volta mi hai detto, quello è un rudere. Sì, un rudere. Tu l'hai detto, un rudere. Sì, un rudere. Quello messo anche a posto, peraltro. Mi pare di aver sentito il signor Rom. Ma lo sai che mi fai veramente schifo quando dici così? Fai risentire cosa ha detto il signor Rom. Il signor Rom intervistato a codesti microfoni. Ma chi se ne frega che l'hanno... Anche rivendicato. Ma chi se ne frega? Sicuramente sono nell'illegalità. E quindi, se ne andassero, si sgomberassero. Ma il sindaco dice che non rientra tra i suoi compiti quello di fare sgomberare un immobile appartenente a un privato. Non rientra nei suoi compiti. Sbaglia. Il sindaco di Lecce dovrebbe mandare la guardia municipale a far sgomberare domani mattina, non sì, è nei suoi infatti, compiti, chi se ne frega, non sarebbe mai accusato di nulla. Penso che sia no, perché magari questi rom magari fanno ricorso. Comunque sentiamo i signori rom alle Iene, sentiamo. Se tu devi andare a casa. Vai. Per favore, vai. Allora. Per favore, vai. Per favore, vai. È vero, ma faresti. Io ti aiuto tre volte. Per favore, vai. Niente, al signore, per favore, vai. Si è incantato il disco. Per favore, vai. Così proviamo a parlare con una delle donne. Ti posso chiedere una cosa? Cioè, secondo te è normale che il signore possa entrare in casa? Ascolta, se è normale, tu non normale, tu vai di qua. Ok. Vai. Lasciamo la telecamera. No, no, no, non lasci nemmeno. Manco senza telecamera. Tu vai di qua. Vai. E ci intima di girare i tacchi e tornarcene da dove siamo venuti. Ma visto che col per favore vai non ha avuto molto successo, va per prendere una sedia. Vieni, avvi tenta carabinieri di qua. No, stai buono, stai vai. Tanto, stai buono, stai buono. Vai. Stiamo andando. Cioè, non so se avete sentito, a un certo punto qualcuno dice o andate o chiamo la polizia. Il rom che chiama la polizia è straordinario. Cioè, chiamo la polizia, il rom. Cioè, tu ti rendi conto? Sì, pazzesco, o no? Pazzesco. Cioè, chiamo la polizia. Ma per favore, vai, per favore. Dai, è casa, uno dice è casa nostra. Ma siamo andati senti, a casa loro. Ma siamo è una follia, è tutto è ribaltato. È tutto al contrario, e tu ridi. Ma e non tu ridi, rido per niente, per favore, ridi. Vai. Non rido niente, dico semplicemente che è ovvio dai. Che lì il sindaco deve far sgomberare tutto immediatamente. Ma è evidente, dai, è un'illegalità palese. Su. Ti sembra normale che il signore non possa entrare in casa sua? Non è casa sua, più adesso non è casa sua. Ah, che coraggio! Se occupassero casa vostra, vi piacerebbe? Non è casa sua, adesso è casa nostra. I nostri risparmi abbiamo messo qua e abbiamo pitturato le stanze intere. Abbiamo lavorato due mesi, signorina cara. Non è che ne ha messo lui il proprietario, è vero? Però il signore non vi ha chiesto di farci dei lavori in casa, no? Non è che vi ha detto voi fate dei lavori e poi no, io vi pago. Non ve l'ha chiesto, l'avete fatto perché l'avete voluto. Hai detto che sei venuto per la pace. Sì. Guarda che non si fa discriminazione. Ma che discriminazioni? Questi signori hanno occupato la casa del signor Luigi e adesso, raccontando che hanno fatto delle migliorie, vorrebbero dei soldi per andarsene. Con i soldi ti puoi prendere un altro affitto. Certo. Se lui è disponibile, andiamo alla polizia, firmiamo le carte, che lasciamo la casa, parla con lui quanto è disponibile per dare per... Cioè, tu vorresti dei soldi per far entrare lui dentro casa sua? Sì. Ma nostri... dai, ma come fai? Ma come fai a pensare sempre così male? Lasciare la casa perché non sappiamo dove andare. Ma i soldi nostri... possiamo fare... Lascio soldi così come stanno. Possiamo trovare entra tu che sei proprietario, prego. Proprio così dovrebbe essere. Mai non esiste questa parola. No, ma ragazzi, ma è pazzesca questa cosa qua. Se ci danno i soldi ce ne andiamo. Ma questi qua dovrebbero essere mandati a fare in culo, ma in maniera pesante, sempre in modo pacifico, per carità. Sono possibile d'accordo. Che a Lecce non ci sia nessuno pronto ad agire, pronto a fare una grande manifestazione, una grande fiaccolata, caro Parenzo? Vai, fai, una fiaccolata sì, intorno alla masseria. Bisogna che queste persone non abbiano il tempo di campare, cioè non possono campare regolarmente dentro questa masseria. Cioè bisogna assolutamente fare qualcosa, ma per una questione di principio, a me non me ne frega niente, una piccola cosa, però una questione di principio, sentire queste persone nella loro arroganza che ti dicono beh se ci dai soldi andiamo via, noi abbiamo speso soldi qua dentro. È la stessa di quegli italiani che occupano le case popolari senza averne diritto. Ma ovviamente questo certo. Che c'è, certo, ma tu non c'è, c'è dubbio, quindi va, è ovvio, ma è chiaro. Sentiamo Fausto da Roma. Dai, sentiamo Fausto, Fausto da Roma. Sentiamo Fausto. Maledetti assassini. No, aspetta, sentiamo, Fausto, no, aspettiamo, vediamo. Fausto vai. Pronto, buonasera. Dimmi Fausto, dimmi. Cruciani, già ci siamo sentiti una volta. Vabbè, non me lo ricordo Fausto, dimmi dai. Se molto te lo dico in particolare, te la ricordi che gli ho detto a Parenzo che c'aveva i bagarozzi in testa, mo tu lo ricordi? Quello me lo ricordo, Fausto, sì. Roma, come lo ricordo, no, ma è uno sì. Dei più grandi metropansi di questa trasmissione, certamente. No, io ti voglio ma dire naturalmente, soltanto una cosa. Fausto da Roma, naturalmente. Sentiamo, avanti, dai. Caro Parenzo, io 19:27. Il tuo buonismo ha rotto, sì. Il tuo buonismo ha rotto i coglioni. I coglioni, 19:27, foro competente. Roma scorso, potrebbe esserci con i tuoi amici zingari e immigrati, sì. Che difendi, lo sai cosa, sì. Mi è successo in tuo supermercato? Che ti è successo? Dimmi. Sentiamo, che ti è successo? È successo che io stavo in fila per pagare in fila e loro dietro sì. spingevano senza chiedere fammi passare per cortesia, spingevano con un'arroganza pazzesca, spingevano. Due amici tuoi extracomunitari spingevano due negri. Strano che non abbiano fatto un collegamento sento ancora da quel supermercato, da questa tragedia. Gli immigrati negri spingevano. Sì, amici tuoi, Lorenzo, i tuoi amici. Allora, i tuoi amici, che è successo? Che hanno spingevano. Una, e che è successo? Che a uno gli ho dato una pizza e l'altro è scappato da fuori. Gli ho detto, senti, io te svoto e ci faccio una muta da sub. Che meraviglia. Com'è frase? Sta cosa? Scusa, senti, io te svoto come... e ti faccio una muta da sub. Che pazzi, i negri no, invece sì. Vado a buttarli al cimitero quando muoiono. Gli svoti e ci fai le mute da sub. Almeno così al mare ti potevo andare tutto. Ma questo però è bello, però devo dire la verità. No, meno male. Capito? Meno non male, è una cosa bella. Si indigna anche lui. Non è una cosa bella. Una persona trasformale. Possiamo aprire con tutti questi emigrati, possiamo aprire benissimo belli negozi, gratis le mute da sub. Per tutti gli italiani, per fare così devi scuoiarli, però Ma gli svuoti, basta che gli svuoti ce l'hanno tutte le misure, certo. Poi le mute Vabbè, però non è bello questo, oggettivamente non è bello, non mi far dare la ragione, non è bello, non è bello l'arroganza di questa gente. Ho a capito, però se anche se uno fosse arrogante non è che ha così, esatto. La conseguenza è scuoiarlo e trasformarlo. Tocca cacciarli via tutti loro quanti, e zingari, ma certo. Eppure i stronzi come Parenzo, come beh, che li difende, ma non c'è dubbio, lui ma naturalmente vive ai Parioli, sì, fa no, parioli, ma parioli. Ci facesse in giretto a Torre Angela, Tor Bella Mora. Dove abiti tu, Fausto? Io abito a Cinecittà. Cinecittà? Però si facesse in giretto giovedì, vado a Cinecittà, devo andare ospite da Giletti. Ecco, appunto, vai da Giletti. Mamma mia, quanto mi piacerebbe incontrarti. Mamma mia, quanto piacerebbe anche a me per vedere che faccia c'hai. Guarda, quanto mi piacerebbe. Siccome mi viene da vomitare, la potrei usare come strumento per vomitare. Parte, io sono la parte. Ha scritto l'avvocato. Ha scritto anticipando lui. Querelina ha scritto. No, anticipa- perché? Ma che c'è? Adesso lo chiamiamo. Anticipato lui, ma ha scritto. Senti qua. Mi ha appena scritto. Fermi. Querelina. Fausto, ma tu hai le armi per caso? Hai armi in casa? Parenzo, io e te non possiamo andare d'accordo perché io sono fascista. Ecco qua. E sì, avvocato, hai sentito? Mi hai già scritto Querelina, evidentemente. Il foro un po' esagerato, Sì, ha esagerato, no? Stronzo, ma che c'entra stronzo? Quindi possiamo subito a dire in giudizio, no? Secondo me sì. Perfetto, ma no, grazie avvocato. Ma che cazzo dice? Grazie molto, non capisci una sega, dai. Bravissimo. Tu. No, ma sta avvocato del cazzo, ma chi è? Ma come dire, uno dei più Fausto, grandi. Non l'ho capito. Ma che me frega a me da avvocato? Sì, perché bravo, posso dire che sono fascista? Bravo, sì, dillo. O scrivo pure su Facebook, bravo. Figurate un po'. E la Boldrini, della palestra con la faccia del Duce sul braccio destro e lo scudetto dell'Italia sulla faccia e la Boldrini e la aspetta Fausto, fermo lì che ti voglio chiedere un'altra cosa. Sì, ancora vuoi tenerlo, certo. Naturalmente. 19:27. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Lo Stato deve salvaguardare la sicurezza di quei due delinquenti? Lo Stato e i cittadini? Noi non siamo da salvaguardare la nostra sicurezza? Parenzo di merda, ma vaffanculo, va! Parenzo, qualora io ti dicessi, non lo dico, ma se ti dovessi dire che sei uno stronzo, tu mi quereli? Io non lo dico, ma se lo dovessi dire che sei uno stronzo, mi quereli? Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato. Allora, questo è il mitologico Maurizio Mosca che durante una trasmissione televisiva, David, qualcuno prese la parola, chiamò e disse nelle televisioni private milanesi, se non sbaglio, gli disse ti ho visto prendere la cocaina a Piazzale. Lui subito ha fatto intervenire il suo trucco, il suo avvocato trucco, evidentemente, lo ha fatto già arrestare. Comunque, ragazzi, la cosa più incredibile, notizia dal mondo folle animalista. Oggi, anzi nei giorni scorsi, è uscita fuori una notizia pazzesca. cioè qualcuno si fa clonare il proprio cane morto. Attenzione. Scusami? Attenzione, clonare il proprio cane morto. Pare lo facciano in Corea. Okay. Una signora inglese, una certa Laura. Corea del Nord o Corea del Sud? No, del Sud, naturalmente. Ah, okay. Una certa Laura dice: con la sua scomparsa avevo perso un pezzo di me. Certo. Sono volata in Corea per vederlo rinascere. Bastano il suo DNA, $100,000. Cioè, questa gente malata per veder rinascere il proprio cane clonato è disposta a versare $100,000. $100,000. Questa non è gente che ama gli animali. Sono pazzi scatenati, sono furiosi, sono gente pericolosissima. Beh, questa qua, altro che Igor, altro che Igor, quello là che ha ammazzato quello. Questa è gente pericolosissima che vuole arrivare alla tua mente. Bastano il DNA, $100,000 e riavranno questo cane. C'è tutta una procedura, c'è tutta una procedura. Con la scomparsa di Dylan avevo perso un pezzo di me. Era il vuoto a ogni passo. Sono volata fino in Corea per vederlo rinascere. Non credevo ai miei occhi. Era il 25 dicembre ed è stato come festeggiare 5 Natali insieme. Vabbè, ma la gente, questa qua è da richiudere, dai. È roba da manicomio, roba da manicomio. Naturalmente. Allora, eravamo con Fausto da Roma, signor Fausto da Roma, il quale, ma come quelli che vogliono, per esempio, che protestano perché le COP fanno lo sconto del 50% Follia. Sugli agnelli adesso che c'è Pasqua. Cioè, non si capisce perché non si possono fare gli sconti per gli agnelli 50% alle COP. Ottimo. La gente paga di meno, le aziende magari incassano e se magna. Fausto, vai. Tutti allora. Tutti possono mangiare l'agnello. Dimmi tutto, Cruciani. Io sono d'accordissimo su quello che dici te, sui vegani. Sono d'accordo con te a prescindere, questa Fausto. Ottimo, bene. Allora, bene. Fausto, io voglio capire una cosa. Questo ma Fausto, Fausto. Tu hai le armi? Certamente. No, aspetta, Fausto, però non metterti con l'auricolare. Prima eri perfetto. Non sto con l'auricolare. Vabbè, dai, Fausto, dimmi. Pronto. Mi senti? Sì, ti ma sento. Io mi difendo da solo, visto che questo Stato non difende. A me, se qualcuno mi entra dentro casa, io abito al quarto piano, scende dal balcone, manco chiamo nessuno. Io voglio capire una cosa, Fausto, hai pistole, sei armato, hai il porto d'armi, che intanto c'hai? Hai il cervello, intanto, che è la prima cosa importante da avere. Cervello ce l'ho molto più bene, di te, Parenzo. Bene, quindi molto ha il cervello, questo è da dimostrare. Quindi lei ha il cervello. No, ma non ho capito, hai il porto d'armi? Sì. Ma per quali motivi? Ho il porto d'armi sportivo. Sportivo. Io sono armato. Sportivo. A me si mettono dentro casa, escono fuori dal balcone. Ma non è che vai in giro armato, però. No, armato no. Però al momento del bisogno c'ho quello che ho. Cioè, dentro casa. Se mettono dentro casa li ammazzo, Crucià. Possono essere zingari, possono essere italiani. Dentro casa io li uccido. Intanto cerchi di essere armato di intelligenza e di lucidità. Per io sono armato di intelligenza, io già te l'ho detto una volta. Cerchi di essere Baccarozzi ancora potrebbe non essere reato, quindi glielo passiamo. L'indifendibile. Qui bisognerebbe resettare tutto. Qui bisogna resettare tutto. Mandare tutti a casa loro. Tutti quanti a casa, certo. Prima tutti gli italiani. Ma scusa, però tu dici... Tu gli raccoglitori di qui pomodoro li chiama lui, li paghi come devi pagare, Fausto, e li fai lavorare. Però tu amico mio, hai detto quando io andavo a fare la raccolta dell'uva in Francia 20 anni fa, mi pagavano, finita la raccolta però dell'uva, hai detto che mi mandavano a casa. Sì, hai detto che trasformeresti i signori immigrati in copertoni, che era in tute da sub. Esatto. Ma non è esatto, i zingari vanno ammazzati, i zingari già te l'ho detto l'altra volta, vanno sterilizzati e messi dentro un campo di concentramento con 4 Doberman. Fanno sterilizzati e messi in un campo di concentramento? Capito. E metteci 4 Doberman come facevano i nazisti. Capito? Come facevano i nazisti? Noi abbiamo il recapito di questo Fausto da Roma, vero? Ma sì, abbiamo. Ce l'abbiamo. Perfetto. Ma guarda che io mica c'ho il problema che chiami l'avvocato. No, quale avvocato? Chiamiamo direttamente la procura della Repubblica. Sei in viva voce, sei. Ma quello è il minore dei problemi. Fidati, Cruciani. Il minore dei problemi è quello che è in viva voce. Il maggiore dei suoi problemi è quello che ha detto, non il fatto che sia in viva voce, capito? Immagino che del diktat su Facebook della signora Boldrini non te ne freghi un cazzo, quello su Facebook. No, quello sarebbe bene a fare. No, fermo là, fermo. Farebbe bene a non fare niente, lascia perdere. Vabbè, Fausto, ciao, ti saluto. Ciao. Luigi da Pisa, vai Luigi, vai. Buonasera. Sì, dimmi. Chi è che rappresenta lo Stato sul territorio? I prefetti. Dove un prefetto non è capace di buttare fuori il vino della mascherina e via le dimissioni del prefetto, perché per incapacità nel suo ruolo. Sì, insomma, per su questo non c'è dubbio. Per me la vicenda dei rom e della masseria è una vicenda talmente incredibile che non riesco a capire come questi rom non vengano presi a calci in culo. I bambini, ce ne fottiamo dei bambini, ce ne sbattiamo i coglioni, vadano con i genitori, anzi, vengano tolti ai genitori e messi e affidati a qualcun altro. Bravo. Dato che i genitori, perché li fanno vivere nella merda. Un qualsiasi italiano, a un qualsiasi italiano, cioè non rom, diciamo, toglierebbe immediatamente i bambini che vivono in mezzo alla merda di un casolare disabitato, chiaro, li toglierebbero immediatamente. Ai rom non li tolgono, ma addirittura con un piccolo disagio te li toglierebbero. Se tu sei vabbè italiano. Luigi, volevi dire questo oppure altro? Sì, no, tu devi dire un'altra cosa. Non puoi rappresentarmi tutti i tifosi del Napoli con quella cretina lì che parla. Ma chi rappresenta? Ma chi rappresenta tutti i tifosi del Napoli? Quella è una cretina che ha detto delle stupidaggini assurde. Vabbè, ciao. Andrea da Siena, ciao, vai, ciao. Andrea. Sì, ciao. Dimmi. Io vi ascolto da oltre 10 anni. Sì, però io scusami un attimo, amico mio. Da dove stai chiamando? Da Siena, da sono fermo. Sì, ma bene, parla a voce alta, vai, forza. Allora, io vi ascolto da oltre 10 anni. Vi faccio questa domanda. Se io vi dico dei cognomi, se vi dico Razzi, Boldrini, Taglia la tela, Borghezio, Raggi, che cosa vi accomuna? L'incapacità totale di ciò che dovrebbero fare. Questo è un paese che deve essere rifondato, bisogna ripartire da zero. No, ma perché che vuol dire? Detto così? In maniera costruttiva, quando il presidente della Camera, la Boldrini, si occupa del problema della trasmissione televisiva, dei social network legato al fascismo, ma non sanno neanche proteggere noi cittadini, noi che lavoriamo per fortuna la signora Boldrini non ha nessuna responsabilità in queste cose qui e speriamo non ne abbia mai, per quello che mi riguarda. Ma non ha responsabilità, ma dovrebbe agire per fare cose più costruttive e ma più cosa importanti. Vuol dire? priorità ci sono delle priorità. La priorità è sono d'accordo con te. Non ci si può occupare di qualche coglione che fa il fascista su internet. Cuba, non è un coglione, lei ha semplicemente richiamato una cosa vera, cioè ma ha detto in Italia vera? C'è una legge che dice che è vietata. Sentiamo, avanti. C'è una legge che vieta di ma l'apologia di fascismo, ma cancellata, non capisco perché, non capisco perché, perché non si preoccupa di quelli che fanno l'apologia di comunismo, l'apologia di comunismo su internet, e allora ci sono stalinisti. Non è un reato l'apologia di comunismo. Uno che fa legge, va bene, un altro che fa il secondo liceo, e al liceo ti danno i volantini di Porco Rosso, che è una movimento legato al comunismo, ma è normale, non è mica un reato. Ma no, senti, amico mio, il comunismo ha fatto un sacco di morti, me ne frego. Se la Boldrini vuole chiudere i siti fascisti, li chiudesse anche quelli che inneggiano al comunismo, chiaro? Deve essere obiettivo. Ciao Andrea, ciao. He asked me to El Paso, said I could stay on his spread. He has horses. Buonasera e benvenuti dalle nostre parti. Il programma che ha l'onestà intellettuale di chiederci se mangio un kebab può venirmi la sifilide, tubercolosi e couscous vanno a braccetto. È vero che fuori dalle moschee dove pregano a piedi nudi ci sono delle verruche così grandi che giocano a flipper? Avrete certamente capito che il tema di stasera è il prodotto tipico dell'Islam, è la meningite. Ne parliamo in studio col dottor Manlio Rogoredo, direttore della rivista prestigiosa di geopolitica Immigrati de Merda. Manlio, batti 5. Ciao direttore. Bene, ti chiedo subito, quanti italiani sono morti quest'anno per colpa delle malattie portate dagli immigrati? Direi quasi tutti. Mamma mia, ma succede come con l'AIDS, dove devi avere il contatto come coi finocchi. No, guardi, funziona così, basta il pensiero. Hai capito. Crozza dalla vostra parte. Fa impazzire quando fa parlare quella di sinistra, che è sempre molto bella, educata, eccetera, che la presenta con mille cognomi, no? Poi dice: la puttana che state sentendo qui è una scambista. Dice: come una scambista? Allora, ragazzi, uno degli ospiti quasi fissi. Diciamo una cosa, però diciamo solo una cosa prima, poi chiudiamo, tanto ormai è tutto uguale. Ma vogliamo dire due parole su quello che ha detto il giovane Casaleggi in un'intervista oggi al Corriere della Sera? No, non mi interessa a me questa puttanata. In cui ha detto alla gente interessa, in cui ha detto: noi Movimento 5 Stelle siamo come Netflix. Vabbè, ma non sono tutte puttanate, dai. Il candidato premier lo scegliamo in autunno. No, perché lui dice: siamo con Netflix, c'è una cosa nuova, gli altri sono tradizionali. Peccato che Beppe Grillo abbia venduto il suo spettacolo a Netflix, ma non è questo il grande conflitto di interessi, però è curioso, no, che lui si paragoni a Netflix. Interessano dove... solo te queste cose. No, no, interessa solo la te. Gente sapere. Non gliene frega un cazzo. Ma Casaleggi, a titolo di che cosa parla? Ma è non lo so, sì, ma l'abbiamo non già so, detto mille volte. Interessa. Non mi interessa, non me ne frega nulla. Allora, avanti con i rompi. No, vai, perché uno dei buonasera, grandi... Buonasera, pronto, no, chi abbiamo? Uno... Il povero Librandi. Assassino, maledetto, cornuto! Appunto! Prendeteli a casa c'è tua, Librandi qua, c'è Librandi qua, c'è da noi Librandi, c'è Librandi. Librandone, dov'è Librandone? Buonasera, come andiamo? Bene, lei come sta? Bene, non c'è male, non c'è... Senta, ma non sei rotti coglione di andare a fare l'utile idiota da Belpietro? Guardi, l'unica cosa che mi sono rotto i coglioni è di sentire le stronzate che dice lei in radio. Bravo. Ma quello, quello può essere diseducativo. Per quello basta spegnere, però. Per quello basta spegnere. Certo, ha ragione. Se vuole, spegniamo. No, adesso con Librandi, faccio una cortesia. Lei è un industriale anche importante. Buonasera, sono Parenzo. Buonasera, come sta? Buonasera, caro. Sì. Bene, mi difendo. Però lei... Sono il Librandi della Zanzara. Lei va... Faccia così, Librandone. Faccia una bella lettera alla Confindustria in cui lei dice: ma no, non lo farebbe mai. Sì, chiusura del programma, ma no, aperta parentesi, continuate a pagare i conduttori, chiusa parentesi. Faccia no, questo. Scusi Librandi, io dico una cosa, no, lei là fa la parte di quello che sta lì, consapevole del suo ruolo, che viene aggredito ogni giorno sempre da tutti con la piazza, ladro, pezzo di merda, infame, lui. Guardi, lì facciamo degli ascolti da paura, quello che c'è. Io cerco di dire le cose secondo il punto di vista di un uomo che difende, sì, ma lei, il governo. Lei recita una parte, lei recita, no, io non lei recita io un ruolo. Le cose col cuore. No, ma lei recita un ruolo, è lì a interpretare un ruolo, o lei o c'è chi Pavone. No, io no. Che si renda conto che il ruolo che recita lei è pericoloso. Ma deve quale cambiare. Pericoloso? Io non fa... certo. Prima non recito nessun ruolo. Le cose che ha detto lei prima sui su Roma che cosa? Sono bravo, inaccettabili. Bravo. Quali sarebbero le cose sui Roma? Mi vergogno. Ah, e io mi devo vergognare. Quelli, quelli occupano una masseria a Lecce. Ascolti, occupano una masseria e mi devo vergognare io. 50.000 in Italia e siamo noi che non siamo Roma che dobbiamo avere l'orgoglio. L'orgoglio di fare cosa? Integrarli, perché sono delle persone... Non si vogliono integrare! Quando? Non si vogliono integrare! 50.000 persone, no, bravo. Ma quando ha visto un rom integrato? Sì. Dove? Ascolti, ce ne sono... Lei lo sa che i rom sono stati anche premio Nobel? Ce ne sono ma stati cosa tanti. C'entra? Lei ma cosa c'entra? Un leghista premio Nobel, non lo bravo, sa, visto giusto, che le difende giusto, giusto tanti. Ma io non difendo nessuno! Giusto, ma lei è fuori di testa, sta dicendo delle cose senza delle senso! Con una grande sensibilità, sono stati i rom, vaglielo a dire! Ma è stato in un campo rom? Sì, vedere. Più volte, vada, glielo vado a dire, glielo vado bravo, a dire a quelli che hanno occupato la masseria a Lecce e si vergogni di quello che dice! Si vergogni! La sensibilità, la masseria va sgomberata subito. Sono i documenti della masseria. Bisogna vedere i documenti della masseria. Certo, ma lei non si vergogna di quello che dice? No, quelli hanno occupato una masseria di un'altra persona. E lei che è il difensore di quelli che ereditano le masserie? Lei ma che c'entro io? Ma che c'entro io? Una persona di cultura che spieghi agli italiani come si fa a recuperare i 50.000 rom rimanenti. Bravo. E allora sì che passerà la storia. Rom rimanenti. Il difensore di quello della masseria. Che non gliene può fregare niente. Ma scusa, nessuno. Non ho capito, ma quello della masseria non ha diritto a quello riottenere... della masseria c'ha la legge che lo difende. No, lo non Stato, lo difende, non lo difende no, lo Stato. Difende nessuno lo difende, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Ah, ha capito adesso Stato... che c'è qualcosa che non quadra. L'abbiamo capito adesso grazie al professor Librandi che c'è qualcosa che non quadra. No, l'abbiamo capito adesso. Non lo so, ecco che qua arrivano queste cose, capisce? Librandi, non c'è nessuno che va lì a sgomberare con la forza quella masseria va sgomberata. sgomberata con la forza. Ma assolutamente. E lei mi dice dobbiamo vedere i documenti. Lei mi dice dobbiamo vedere i documenti. Ma quella è sua, è sua. Librandi, faccia il suo lavoro. Librandi ti sta dicendo una cosa vera. Cioè Librandi ti ha detto che per a tutela di quello che si è visto, no, non li mandano via perché ci sono i bambini. A tutela ci sono i bambini che vengono massacrati, ci sono in televisione. I bambini. Non c'è la legge. Purtroppo oggi non li mandano via perché ci sono essere i bambini, caro Librandi. Ma non ci credo. Come no? A cosa non credo? Lei ha detto prima che se ne frega dei bambini. Me ne fotto totalmente. Me ne fotto. Me ne fotto. Bella persona. No, ma me ne fotto non dei bambini. Del ruolo. Del ruolo. Ma veramente. Ma cosa c'entra? Io mi vergogno. Lei dice vediamo i documenti. Mi devo vergognare io. Le cose materiali ci sono, le cose spirituali. Si guardi un po' dentro. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma lei e poi dice, io dico delle cose inaccettabili. Ma che cosa dico? Al mondo per aiutarsi, ha capito? Per collaborare. Ma scusi, in questo caso ci sono dei Roma che hanno occupato una masseria illegalmente. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi è arrivato lì prendi? Chi se ne frega? Guarda che è incredibile, è pazzesco. Il difensore dei Roma abbiamo, difensore dei Roma. Li assuma lei, un paio di Roma. Li assuma lei un paio di Roma. Ma certo, assolutamente. Vediamo, comune dove abito io, a Saronno, ci sono diversi Rom che lavorano nel comune. Bravi, bravi, una minoranza, una minoranza assoluta tra i Rom. Ah, io sono una minoranza. Io sono uno, sono io. Certo che sono una minoranza, essendo io. Quando lei sarà lì, che sarà un po' più anziano, diciamo, comincerà a capire tutte le stronzate. No, perché che sarò, ha detto, si vergognerà perché delle sarò, stronzate. Perché che sarò, ha detto a Cuba, sarò a Cuba a fare altro. Altre cose materiali, perché a Cuba l'adorano a lei, perché lei è un. Non mi dà, la Cuba ormai è diventata Cuba, gente, ma no? Non me ne frega niente. Lei fa finta. Lei si riempie la bocca di queste cose, di fare del bene, eccetera. Qui la situazione è chiara. Tolleranti con i Rom. Tolleranti con i Rom. Non scatenare le persone contro le altre, bisogna cercare di aiutarsi. Scusi un attimo, lei al posto di quello, al posto Roma sono delle persone deboli. Deboli. Ha capito? Deboli. Sì, deboli. Deboli Rom. Deboli Rom. Forti. Sì, deboli. Deboli Rom. Sì, certo. Ma sono deboli. Dei ladri matricolati spesso. Ma non quali ci arriverà deboli? Mai, lei. Scusi, veramente. Deboli Rom. Cioè, sì, i Rom deboli, sono deboli. Sì, lei provi a vedere. Allora, un Rom si presenta là, suona il campanello di un'azienda. Sì. Dopo è brutto, sdentato, non assume nessuno. Certo, non è bello, non è bello. Bisogna essere aiutarlo a elevarsi. E lei quanti capisce? Ne ha assunti fino adesso? Quanti ne ha assunti fino adesso? Non si preoccupi, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno. Bravo, bravo, bravo. Io non ho aziende, non ho aziende. Lei è un insultatore. Bravo. Che crea non ho aziende. Le ottimo, che Librandi. Sono povere, si vergogna, bravo, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fare a tenerla lì. Ecco, bravo. Anche questo è vero, ha ragione Librandi. Un insultatore. Io esprimo le mie idee. Lei dice che no. Lei dice i Rom sono poveri, sono deboli. Guardi, deboli Rom. Dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione. Assolutamente perché no. Lei è perché? Anche un personaggio del genere. Sì, che quando bravo, uno fa girare le palle, io, chiude la comunicazione. Io, assolutamente sì, no. Sì, mai fatto. Mi affronti a viso aperto. Le ma la sto affrontando a viso aperto. La sto affrontando a viso aperto. I Rom sono delle persone come deboli, lei. Deboli, ma come me è un cazzo. Deboli. Ma che vuol dire? È uguale a lei. Questo, vabbè, questo d'accordo. Ma che vuol dire questo? Ma vuol dire che deve essere cristiano, cattolico. Io non sono né cristiano persona, né cattolico. Va bene. Sono ateo. Per lei, mi sono ateo. Per perché non va nemmeno bene essere atei. Non va nemmeno bene essere atei. Non va nemmeno bene essere atei. E allora. Ascolti, lei può essere quello che vuole, ma non deve insultare quelli e chi più sta, e chi sta dicendo niente? Meno fortunati di lei, capisce? Come meno fortunati? Chi sta insultando? Sto dicendo semplicemente che devono andarsene fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni della masseria, fuori dai coglioni della masseria, sto dicendo. Lei non lo dice, lei non lo dice fuori dai coglioni della masseria. Non lo dice dell'ordine che difendono. Ah, non lo dice fuori, lo dica fuori dai coglioni della masseria, fuori dai coglioni della masseria. Non lo dice. Ma c'è già lei che lo dice, no? Il difensore. Arrivano le forze dell'ordine. Non possono fare niente, non possono fare niente. Le forze dell'ordine sono le persone preposte. Non stanno facendo niente, purtroppo non possono fare niente. E lei e altri come lei. Adesso parliamo degli ma non c'entra niente. Adesso parliamo della vicenda di Budrio. Un attimo qua, un attimo solo, fermo. Lasciativo parenzo e alla defecazio non ci penso. Asmodeo, vai via. La zanzara. Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogni, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fanno a tenerla lì. Hai capito? Veramente. Naturalmente. Allora, come avete sentito prima, siamo in collegamento con l'onorevole di ex sciolta civica, Librandi. Avrebbe fatto senatore a vita. Gianfranco, Librandi. Cosa andrebbe fatto? Senatore a no, vita. No, ce n'abbiamo già uno, senatore a vita, che è stato fatto. È uno che ha il coraggio il di sostenere delle cose. È il partito che lo ha ingaggiato, cose, è il partito che l'ha ingaggiato quando fu eletto. Apparentemente impopolari, apparentemente, perché in realtà la maggior parte del paese sono persone per bene come lui, cioè imprenditori di successo, prestati alla politica, persone disinteressate, che bene, dicono delle carità, cose di assoluto buon senso. Ma io la conosco. Una bravissima a persona, non c'è 0,5% di miserabili che chiamano qui. Ma che di c'entra questo adesso? Radiofonici di 51 anni che, riparatisi dietro un microfono e pagati dalla Confindustria, usano questo strumento per fare della propaganda razzista. Ma quale propaganda? Ogni giorno è impazzito. Sostenuti da camionisti, pseudo disoccupati, minchioni vari, che armati di pistola rivendicano di sparare a tutto sbiano. L'Italia non è questa. L'Italia è Librandi, l'Italia è quell'altro imprenditore che, dopo essere stato svaligiato, ha detto, una volta che quello ha fatto la galera, sono pronto ad assumerlo nella messaggio mia azienda. Messaggio pessimo. Grazie Italia, l'Italia è questa, l'Italia è Librandi, l'Italia è quell'altro imprenditore di Ivrea, Novara, non mi ricordo che cazzo di posto era, ma insomma quel posto del nord. L'Italia è questa roba qua, non Antonio da Canicattì, Bubù da Latina, allora, l'altro imbecille che chiama Librandi, sempre. Ecco. Vogliamo ricordare Librandi che lei è uno di quelli che sostiene che Monti ha salvato l'Italia. Sì, questo sicuramente. Che l'Italia oggi è più sicura come paese rispetto, che ne so, a qualche anno fa, e che gli italiani stanno meglio, diciamo, giusto? Ho riassunto bene? Bravo. Lei dice Monti ha salvato l'Italia. L'Italia è un paese più sicuro di quello che ci vogliono far credere. Lei purtroppo in economia non è molto preparato. No, ma lasci non perdere, la io sto riassumendo quello che lei dice, quello che lei sostiene. Esatto. In maniera non se la prenda sempre con me, che non c'è bisogno, se la prenda con altri. No, non perché con me. Lei una volta tanto potrebbe dire delle cose positive del suo paese. Lo lasci dire a me quello che lo lasci dire a me quello che devo dire. Parla male dell'Europa, prende lo stipendio dall'Europa. No, io non dico nulla. Esattamente uguale. Io non sto dicendo niente, perché prendo lo stipendio dai privati, dunque non mi rompo i coglioni. Allora, Monti ha salvato l'Italia. L'Italia è un paese più sicuro, giusto, dal punto di vista della sicurezza. 10% di reati in meno. Sì, bisogna vedere quelli che denunciano e quelli che non denunciano. Poi lasciamo perdere quello. Dati finti. I soldi alle forze dell'ordine che erano rimasti bloccati. L'avete dati voi, Renzi li ha dati. Abbiamo dati noi, sicuro. Renzi, sì, io appoggio il governo. Gli italiani stanno, non c'è più il governo, gli italiani stanno meglio. Gli italiani stanno meglio. Sì, ho capito. Stanno gli molto meglio. Stanno molto, adesso il stanno meglio. Degli italiani pro capite è il migliore d'Europa. L'italiano è un paese ricco, l'Italia è un paese ricco, giusto? L'italiano è un paese dove le famiglie stanno meglio di prima. Hanno in banca soldi più di tutte le altre in Europa, perché fortunatamente non sono. Bene, allora andiamo a Budrio. No, ma lei ha detto quello che ha detto. Andiamo a Budrio, andiamo a Budrio. Allora, il signore che è morto a Budrio, cosa avrebbe dovuto fare secondo lei? Ma il signore che è morto a Budrio, prima di tutto grande rispetto per la sua famiglia, per il dolore di questa situazione. Non dica queste cose che lo sappiamo, che lei non c'è bisogno. Io lo dico perché è giusto così. Poi? Per quanto riguarda, io credo che purtroppo, a favore di dire queste cose alla radio o a colpa mia adesso, insomma, ha collaborato, diciamo. A favore di dire, lei è un collaboratore di ingiustizia. Ma di che cosa? A che cosa avrei collaborato, scusi? Al fatto che questo ha reagito? Bisogna sparare, bisogna armarsi, bisogna fare delle cose. Allora la gente reagisce invece di usare il ragionamento di dire tanti. Praticamente, siccome Salvini rapinare, a me è successo a casa mia che mi hanno rapinato, gli ho dato i soldi. Niente, non ho fatto niente, capisce? Dunque, questo qua che cosa avrebbe dovuto fare secondo lei? Io gli davo tutti i soldi dell'incasso e poi avrei chiamato appena possibile le forze dell'ordine. Cioè, lei dice che il signore del bar di Budrio, con tutto rispetto ovviamente per la famiglia, questo lo stiamo dicendo, avrebbe dovuto fare che cosa? Alzare le mani, cosa? Alzare le mani, dire, prendi le tutto mani? Quello che vuoi, perché la vita è la cosa più preziosa che c'è. Alzare le mani, dunque consegnare tutto l'incasso? Certo, assolutamente, io almeno io avrei fatto così. E poi chiamare e poi una volta uscito chiamare immediatamente i carabinieri, questa è la cosa. Dunque il fatto che ha reagito, gli è saltato addosso, è colpa della campagna orchestrata da Salvini e di cui io sarei partecipe, giusto? Beh, tu sai. Beh, questo l'ha detto lei. Prima. Un po' aggressivo, no? Capisci? No, lei ha detto prima, è colpa anche della campagna che c'è in corso per dire armatevi. Dunque quello ha reagito reagito, è saltato addosso al rapinatore anche per colpa di questa campagna, almeno da quello che ho sentito dalle sue parole, è giusto? Sì, giusto. Sì. Ma si rende conto di quello che dice? Cioè, no, mi rendo conto che bisogna smetterla di dire ai cittadini delle cose sbagliate. Quello, se avesse avuto una pistola, gli avrebbe sparato. Ascolti, ma ha fatto male a non avere una pistola, gli avrebbe sparato in fronte, bisogna magari. Bisogna chiamare le forze dell'ordine, le pistole non servono. Non servono le pistole, l'ha deciso lui. Perché non servono. Infatti quando c'è la sfida, cioè il ladro armato e noi armati, perdiamo sempre noi, capisce? Perché se noi continuiamo a dire che ci armiamo, i ladri si armeranno più di noi. Noi dobbiamo vincere i ladri con l'intelligenza, con la tecnologia. Uno entra dentro casa, scusi un attimo. Ladro, ci dobbiamo usare l'intelligenza. Sì, dobbiamo... Scusi, ladro, una volta che entra dentro, scusi, ladro, devo usare l'intelligenza. Lei mette in funzione poco, però diciamo con l'intelligenza. Sì, perché è arrivato il professore, è arrivato. No, scusi, guardi, le rapine delle banche non ci sono più nella non ci porta sono più perché... le rapine nelle no, banche. No, perché c'è stato ma apriamo le porte di casa. Lei guarda le città, guardi alla provincia quello che succede. Guardi alla provincia, non prenda un dato a cazzo di cane. Lei prende i dati e li utilizza a cazzo di cane! Li utilizza a cazzo di cane! Ma e guardi, fa pure il deputato! Fa anche il deputato! Fa il deputato e ne sono orgoglioso. Ma perché che si va bene, per carità! Di risolvere i problemi dei cittadini, non fare come lei, infatti, di buttare i problemi addosso ai cittadini. Io faccio un altro mestiere, dico quello che penso, soluzione. Chiaro? Certo, è lei che deve trovare la soluzione, io non devo trovare nessuna soluzione. Sono soluzioni tecnologiche, sì, arriva uno dentro casa. Bisogna aiutarsi con i sistemi informatici come fanno tutte lei le sta parti dicendo del che quel signore ha fatto male ad andare addosso al ladro ha fatto male ad andare addosso al ladro. Io avrei reagito in un altro modo, è inutile che cambia le parole, non quelle no, che dice sto lei. Dicendo semplicemente che col senno che di poi sono tutti bravi e poi avrei chiamato le forze dello come ho già fatto altre volte. Io sto dicendo che per fronteggiare queste situazioni non bisogna armarsi, ma bisogna cercare di utilizzare le rapine in banca non ci sono più perché non ci sono più i contanti, questa è la realtà. Certo, non perché non ci sono più i contanti, li abbiamo rimessi fortunatamente. Sì, ho capito, ma non è che sono montagne a parte di che contanti. Non è vero che non ci sono più le rapine in banca. Vabbè, comunque d'accordo. Salvini ha detto che non gli dispiace se muore un rapinatore, se un rapinatore muore. Salvini è una persona diciamo ignobile. È una persona che dice delle cose che io non condivido. Lui può dire quello che vuole, lui dice anche che la soluzione per l'economia è la flat tax che agevola solo i ricchi. Dice delle cose che si inventa lui per cercare di colpire l'immaginazione delle persone, però invece l'unico razionale è lei, l'unico razionale è lei. I leghisti sono tutti dei coglioni, l'unico razionale guardi, è lei. Lei è molto abile, sarebbe un grande venditore di pentole, ne venderebbe sicuramente tante. Non è escluso che mi candidi, di Brandi. Però le garantisco che nonostante che lei gira sempre le parole, io cerco di essere concreto. Trovi soluzioni, non mi pare che lei non è informato. Quale soluzione? Su che cosa? Le soluzioni su che di sgravare chi mette i sistemi di allarme. Bene, molto bene, ottimo, assolutamente bene. Infatti, meno tasse per chi vuole mettere sistemi di allarme. Ma non è che tutti sono ricchi e si possono permettere sistemi di allarme. Il governo Monti ha defiscalizzato per chi li mette. Il governo Monti ha defiscalizzato. Lasciamo perdere Monti, va. Senatore a vita. Paghiamo un senatore a vita. Paghiamo un inutile senatore a vita. Chiaro? Inutile senatore a vita. Veramente al servizio di voi con Salvini. Ma che c'entra voi con il Salvini? Senatore, il governo Monti, anche il governo è giusto hanno avere i senatori a vita? Librandi, è giusto avere i senatori a vita? È giusto o no avere Monti senatore a vita? Mi dica. Diciamo che Monti è così un titano dell'economia un che titano. Nel suo caso è giusto. È giusto avere senatore a vita? Sì, benissimo, perché no, ci ha detto fatto tutto. Risparmiare miliardi, capisce? Bene, non ha ma... lei purtroppo bisogna che ci troviamo a un bar con un caffè e spiegherò come perché. E dopo lei dirà non a vita, gli daremo anche a che cosa? Oltre la vita, secondo lei va in Nobel va dato a Monti? No, gli intitoleremo delle piazze a delle Monti. A Monti certo, vanno intitolate delle piazze. Cosa incredibile. Ti posso dire di perché più? Perché non in Nobel per l'economia? Fornero, perché se ci penso? Perché anche non alla in Nobel? Anche alla Fornero vanno date delle tasse. Delle piazze. Senatrice a vita con la Fornero. Ma perché non in Nobel? Perché non in Nobel? Perché non in Nobel? Perché non in Nobel? Perché che appoggia lei? Perché non io non appoggio nessun partito? È lei che è dentro la politica, io no, si ricordi. Perché non in Nobel? Ma perché no? Perché no? Monti Nobel, va bene, Monti per ci meriterebbe sicuramente un Nobel, ha fatto Nobel, beh, delle cose ottimo, che hanno Nobel, aiutato signora. Veramente l'economia italiana. Va bene, poi... grazie Librandi, arrivederci, grazie, buona serata, grazie, buona serata, grazie. Saluti. Incredibile. Bravo, mi sembra buon senso, mi sembra vedere delle cose di assoluto buon senso. Victor Padova, vai. Buonasera. Victor da Padova, sì. Che? Victor Orban è questo. Buonasera, buonasera. Dimmi. Guardi, vorrei dire due parole in difesa di quel povero signore a Lecce che non può uscire con i zingari. Sì. Quali sono i zingari? Sono sì. dei zingari. Beh, si sa che sono zingari. Si sa. Però, no, ma sono zingari, inutile di parlare. E tu che faresti? Tu sei romeno? Sì, io sono romeno. Che faresti con questi zingari? Come che fare? Li prenderai calci in culo e butterai fuori? Ecco. Fuori dove, scusi? Fuori a mare? Fuori in una fossa sono... comune? Fuori dove? No, lasciamo perdere. Fuori da dove sono venuti? Fuori in Romania. In Romania. Dove sono venuti? Ho capito, molti sono italiani, però bisogna dire, eh? Molti sono italiani. Meno no, male. Guardi che nel loro DNA sì, è inoculato la ruberia e non lavorare. Questo mi sembra una... Allora, l'ho detto io da ora da vita, l'ha detto questo signore, Victor da Padova, che dice nel DNA dei signori Rom Zingari, come dice lui, c'è la ruberia e non lavoro. Già parlare di DNA... Vabbè, lui vuole dire DNA per dire nella loro mentalità. Indole, vuol dire indole. Non è che dice DNA in senso razzista. No, appunto, già è però, già dire lo stesso, già dire che nella loro indole c'è la volontà e la voglia di rubare, già questo li etichetta. Ma sì, niente, che vuol dire sì. Victor Orban 98% del loro 98% statistiche fatte da chi? Sondaggio di dalla vostra parte 98.8 98.8 Che fai di mestiere, Victor? Che fai di mestiere? Io sono sempre autista, con quel Victor sempre. Si ricorda il giorno settimana scorsa che però... Victor, quanto cazzo di numeri hai per telefonare? Perché hai saltato tutta... No, c'è sempre un Victor. No. C'è un altro, non c'è un Victor solo. Mitico Victor, Victor. Non sono quello, Victor, ho capito. Un altro Victor. Ciao, guardi, Victor. Io ho vissuto tra di loro, per 40 anni. Allora? Io ho trovato 98% quello che rubavano e 2% che sono, diciamo, normali. Mi sembra una parola definitiva quella di Victor, sì, direi. Una secondo Victor. Direi Victor non va bene, invece va bene Librandi? No, ma cioè, Victor non va bene, va bene Librandi, solo perché Librandi fa parte del tuo circuito. No, quale circuito? Circuito non lo di vedo professori, mai, Librandi, me ne frega niente. Di imprenditori, deputati, Victor non va bene che è romeno. Ma Victor va benissimo, l'opinione di Victor è la butti al cesso. E invece ma Librandi che dice che sono poverini, Rom. Ha detto una cosa vera, ha detto che sono 50.000 i rom in Italia. Allora che cazzo vuol dire? 50.000. Allora 50.000 persone non possono costituire il problema italiano. Chi ha detto questo è il problema italiano? Chi lo beh, dice? A sentire te. Allora non andasse in quella trasmissione e dire facciamo grandi ascolti. Giustamente è parte di una commedia allora. Ma lì a combattere per dare il punto. Bravo. Lei è un insultatore. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. Cruciani, potrei sapere dov'è che abita il signore là, Borlotto, Bertolotto? No, perché almeno vado a fargli visita anch'io una notte, ho bisogno di un lavoro. Me lo dite? Quello gli interessa solo recuperare l'orologio, parla così perché gli è andata bene. Non penso proprio che avrebbe detto le stesse cose se gli avessero ammazzato un parente. E comunque, io feci domanda d'assunzione da sto stronzo e venni rifiutato. Mi fa piacere vedere che due rapinatori sono considerati più qualificati di me. Vorrà dire che la prossima volta il curriculum lo recapito con coltello in mano a casa del mio prossimo datore di lavoro. Caro Parenzo, soltanto una domanda. L'imprenditore che vuole assumere il ladro dopo che ha scontato la pena, dici che è da prendere come esempio, è un simbolo. Ma la Vanna Marchi l'ha scontata la pena e come mai quella ti sei così accalorato quando forse doveva andare all'Isola dei Famosi? Sei il solito doppio pesista, quando fa comodo a te, capito? Devo sfogare un po', vaffanculo Parenzo, vaffanculo, tu e le tue cazzo di leggi di merda. Allora, un cazzone c'ha l'arsenale di droga a casa, ok? Però quel cazzone di un giudice, cosa fa? Lo lascia andare in giro, così questo ammazza una persona, però per le tue cazzo di leggi va bene che questo in giro ammazza le persone, e sempre per le tue cazzo di leggi io non posso armarmi e sparare a un coglione che mi vuole ammazzare a sprangate. Vaffanculo! Scusate, ho un amico senza lavoro, voleva sapere l'indirizzo dell'imprenditore lì in modo da poter magari trovare lavoro, e voleva sapere anche, per un lavoro a tempo indeterminato dobbiamo aggiungere qualche reato, non so, stupriamo lui? Ehi, il top assoluto! OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento la zanzara. Asmodeo, vai via! Allora andiamo a Milano, Riccardo, vai, Riccardo, sì, Milano, su. Giuseppe, io sono d'accordo con te, con un gruppo di persone che bisogna eliminare a tutti i zingari. No, veramente io non ho mai detto che bisogna eliminare tutti hai i zingari. Quale? Beh, no, ho capito così. Quella gente è solo pazzesca, criminale. Ha capito così, criminale, l'ascoltatore, capito? Sono pazzesco, capito? No, Riccardo, a parte che non ti credo perché stai facendo finta di essere un mezzo sudamericano, eccetera. Io sono sudamericano, io sono della Repubblica Dominicana. Sì, e allora che cosa dici? Ti chiami Riccardo? Sì, io mi chiamo Peña. Riccardo? Peña. Riccardo Peña, bene, Riccardo Peña. Sì. Allora, cosa dice Riccardo Peña? Dice che bisogna, è uguale. Che bisogna ammazzare tutti gli zingari? Sì, sì, bisogna eliminarlo. Sono persona criminale. Sì, ma come bisogna eliminarli? In che modo, scusami? Da tutta la maniera, bisogna metterlo dentro un buco e lasciare la testa fuori. Addirittura. Signori, addirittura. Signori zingari, signori zingari. Fanno del tutto in queste paese. Fanno del tutto. Fanno del tutto. Ma tu ci credi all'esistenza di questo Riccardo Peña, Parenzo, oppure hai dei dubbi? No, se può essere, sai, sono talmente tanti matti che certamente. No, io ti ho chiamato la prima volta che ti sto chiamando. Adesso te sei matto bacato nella testa. Sei loco, loco con un bacato in testa, un buco nella cabeza, c'hai un buco nella cabeza. Sì, sì. Bisogna eliminare tutto. Non sì, ma tu sei matto, fare. Sei un loco, sì, sei loco. Ma tu sei un disturbato. No, non è un problema di loquera, è un problema di... No, ma tu sei loco. A te sei matto, bacato nella testa proprio, ma dentro. Ma tu credi che io sono bacato nella testa? No, io sì. non credo proprio che io sono bacato nella testa. Io hai credo che sì. Io credo di sì. Perché fanno solo del male in questo paese. In questo paese sì. Non c'è legge contro loro. Loro fanno quello che vogliono e quando vogliono. Fare sì. Quello che loro vogliono certo. Fare lo fanno sì. E nessuno lo può e dunque la soluzione è sopprimerli no sopprimerlo solo no, bisogno è fare come faceva Hitler, bisogna ammazzarlo come faceva Hitler, ammazzarlo da piccoli, capito? Ammazzarli da piccoli come da facevano piccoli. I romani. I romani, certo, sì, si esercitavano ogni tanto. Sì, esatto. Fanno male anche quando sono piccoli. E quei bambini, sì. Bambini sì. Per la società non servono perché fanno quello che il padre fanno, capito? Sì, il padre è delinquente, capito, è normale che fa. È normale, tutto normale, normale. Certo. Sì. Ciao allora. Riccardo, ciao Riccardo Peña. Buona. Ciao. Allora, ragazzi. Io ormai ogni tanto, passa tutto in cavalleria. Io ogni tanto, no, ma non so nemmeno se è credibile. Sì, questo anche secondo là. Me. La questione è molto semplice. Ce la siamo presa per tanto tempo con i vegani. Ogni tanto continuiamo a prendercela. Recentemente hanno fatto un altro exploit. No? Molti vegani o nazi vegani, come li chiamo io, hanno scritto sì. A proposito della morte del poverino di Emanuele ad Alatri. Hanno inveito contro di lui perché era un pescatore, un cacciatore, eccetera. Una vergogna assoluta. Ma questo fa parte di una mentalità. Adesso vogliamo chiamare una signora che si chiama, mi sembra, Fabiana D'Andrea, una vegana, che ha iniziato una raccolta di firme per protestare contro una promozione della Coop. La Coop, come tutti i supermercati, come le grandi catene, fanno dei grandi sconti. In sì. Questo caso, nell'avvicinarsi della Santa Pasqua, hanno fatto il 50% dello sconto per chi acquista un agnello. Questa si è indignata. E perché mai? Chiediamo, sentiamo. Pronto? Sì, signora Fabiana? Buonasera, Radio 24, salve, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo chiedere qualcosa su questa sua iniziativa per l'agnello alle COP, ma che succede? Niente, non succede niente di che, succede semplicemente che l'anno scorso già loro l'avevano fatto, noi gentilmente avevamo chiesto di evitare di mettere almeno l'immagine dell'agnello con lo sconto al 50%, visto che mettono l'agnellino fatto a batuffolino e con lo sconto testa, cotenna, tutto, insomma. Beh, però mi scusi, se uno fa una promozione è chiaro che l'immagine è quella. L'agnellino della faccina tutta allegra, cioè, e allora è come la mucca felice che non esiste, come la vedo io, la mucca felice non esiste. Beh, esisterà pure la mucca felice, ogni tanto saranno felici, no? Quando? Beh, sicuramente quando muoiono non saranno felici, ma prima saranno felici o no? Non penso proprio, visto gli allevamenti intensivi che si vedono in giro. Comunque, questo è un altro discorso. Sì, tra lei e una vacca, tra me e una vacca, ci sarà qualche differenza o no? Per me non c'è alcuna differenza, perché sono esseri empatici, soffrono, dormono, mangiano, bevono esattamente come tutti noi. Scusi, però qual è la vergogna? Adesso, al di là di questo, qual è la vergogna secondo lei della COP? Cioè, perché Non è una vergogna, è evitare proprio di fare uno sconto del genere. Ma come evitare fare uno sconto? Ma scusi, non possono perché fare uno sconto su altre cose alternative? Ma è un prodotto qualunque, ma, ma perché non fanno lo sconto sulla colomba e non possono farlo sull'agnello? Non ho capito. Pure farlo sul gelato. La colomba è una cosa strutturata e non c'è niente di vivo all'interno. L'agnello è un prodotto che si può mangiare. Era il figlio di una pecora. Ho capito, amica mia, ma scusi, ma arriva la Pasqua, tutti hanno diritto di mangiare l'agnellino, ma mica soltanto i ricchi. Ma non ho detto che nessuno ha diritto. E allora si faccia giusto lo sconto, ottimo. La COP di sinistra fa lo sconto sugli agnelli, più agnelli per tutti. Io aspetto, ma per carità, siamo però siamo soci anche noi COP, non è che ci sono solo le persone che mangiano gli agnelli. Ho capito, amica mia. Anche noi vogliamo lo sconto sulle cose nostre, semplicemente. Lo sconto su altre cose, gentilmente, di eliminare questa cosa. Ma perché bisogna eliminarlo? Facciamolo su altre, lo sconto. E come metterci? Allora mettiamo sullo sconto un bambino a metà prezzo. Vediamo. Sto parlando il mio punto di vista. No, ma d'accordo, per lei un bambino, lei mi sta dicendo che un bambino e un agnello è la stessa cosa. Cuccioli, sono vite. Per lei sono uguali, un bambino e un agnello sono uguali. Non c'è alcuna differenza tra un bambino, un gatto, un cane. Ma cosa dite? Ma come cosa dite? Vabbè, secondo lei è così, che devo fare io? Secondo lei che cosa dite? Ma ho capito, ma signora mia, ma lei capisce che io non è che entro nella coppa e gli urlo dietro e gli dico vergognatevi, io sono espresso il mio punto di vista. Sì, però signora mia, allora ci sono due persone, no? Ci sono due persone, un agnello da una parte e un bambino dall'altra. Mettiamo mia figlia, che sono in pericolo di vita, tutte e due. E lei deve scegliere chi salva. Io non scelgo nessuno, perché per me la vita è principale, fondamentale, un diritto di tutti. Ho capito, ma se lei deve scegliere se salvare la vita di un animale. Io non ho diritto di vita e di morte sugli altri esseri. Quelli che allevano gli animali per portarli poi alla morte, perché comunque muoiono, come li considera lei? Gli allevatori degli animali che poi verranno uccisi, come dico? Cerco di non considerarli, perché sono persone che dovrebbero cambiare. I cacciatori dicono che fanno uno sport. Sono le persone frustrate, poverine, perché non sanno che altro fare il sabato e la domenica, e vanno a ammazzare altri animali e neanche se li mangiano. Assassini loro? Ma neanche assassini, proprio persone frustrate. Frustrate. D'accordo. Scusi, però lei, per esempio, coi topi, come si fa, per esempio, coi topi? I topi sono un problema. Ci saranno metodi alternativi per prendere i topi. Non si ammazzano, manco i topi si ammazzano. Nel caso in cui ci sono tanti topi, si provvede a portarli. Come facciamo? Col piffero? Col piffero? Ci metterò dei gatti, i vecchi gatti. I gatti li mangiano, ma li mangiano i gatti però. Ma i gatti è la loro natura, mangiare i topi. E i pidocchi? E i pidocchi ci si farà qualche pappina come faceva la mia cara nonnina che mi metteva in testa. No, ma ho capito. Ma si ammazzano, si possono sterminare i pidocchi o no? Ci sono anche gli sciampi vegani apposta per eliminare i pidocchi. Vegani nel senso. Gli sciampi vegani, amica mia, non ce la faccio più. Cioè, voglio dire, ma chi è che si prende i pidocchi? Non verranno mai i pidocchi sui capelli se sono puliti e se sono trattati. E gli insetti e le zanzare? E le zanzare io a casa mia ci metto del limone con dentro dei fiori di garofano, va bene? Amica mia! Io le ammazzo, le zanzare le spiaccio dal muro! Le faccio elettrificare, faccio zzzz, Ma faccia quello che vuole a casa sua. Ma perché vanno rispettate, no, pure le zanzare, vanno rispettate. Amico mio, rispettiamo ogni file. E i moscerini, e i moscerini, e i moscerini violeranno dove devono volare. Allora... Cioè, con la macchina, quando uno prende i moscerini e li ammazza. Ma queste sono, questi sono cose che le persone che non credono in una cultura vegan tirano fuori ogni volta, non sanno dove attaccarsi. Io l'abbraccio fortissimo. Salute. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top, siamo il top, siamo il top. Ma va suca. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Gianni, senza il mio amico Cialis neanche ci provo. Va che è una meraviglia. Siamo al top. Cruciani, Parenzo, sono appena passato sulla strada di Binasco, ma quante troie ci sono, si siedono sulle poltrone, ma è una roba incredibile, incredibile, non l'avevo mai vista. Ha ragione l'ascoltatore dell'altra sera. Cruciani, a Binasco c'è un club che si chiama Monte Rosso, altro che nigeriane, che ragazze sfruttate, lì si scopa da Dio, ma con delle fighe che non ti immagini neanche. C'ha due chiappe, amore mio. Allora ragazzi, come sapete è successo di tutto ieri durante la trasmissione della D'Urso. Si parlava dell'intervista che abbiamo fatto in settimana a Cicciolina, quando Cicciolina ha detto io prendo 2000 euro di vitalizio, 2000 euro nette, mi servono soprattutto per mio figlio che ha 24 anni, non trova lavoro perché vuole fare l'artista. E noi abbiamo chiesto ma perché non fa l'avvocato? Ma qua l'avvocato, quello vuole fare l'artista, non gliene frega niente di fare l'avvocato, e va bene, per carità. Ha detto anche che i reality lo respingono perché non si capisce, perché figlio di Cicciolina forse, dunque sarebbe discriminato. I reality, non è che fare i reality sia un lavoro. Comunque vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un po' criticato Cicciolina. E ha detto anche che il marito non dà un euro, il signor Jeff Koons, che è un milionario, un artista milionario, non dà un euro per il figlio, e lei deve combattere anche per, ha dovuto combattere per farsi dare i soldi quando si separarono. In tutta questa discussione a domenica live, caro Parenzo, sì, ho seguito. È arrivato il signor Facci, ottimo, che a un certo punto si è messo a battibeccare con l'avvocato nonché compagno, sembra, della signora Cicciolina, avvocato, un tale quello lì. Luca di... perché uno non può essere non avvocato, so, anche se visto, è vestito in quel modo lì. Non vestito, l'ho visto. Io invito gli ascoltatori della Zanzara di andare a cliccare su Google e vedere l'avvocato. Per carità, va benissimo. Ma perché non può essere avvocato l'avvocato di ho Carlo? Detto, va bene. Riconosci solo l'avvocato Taormina, te? Solo l'avvocato Trucco riconosco. L'avvocato Trucco, l'avvocato la Buongiorno. Di stile, di come uno si presenta tra l'avvocato Trucco e quest'altro avvocato qui. Però per carità, ognuno può, andate a vederlo, andate, ma, a vederlo. Ci sono tanti avvocati, c'ha una dai. Catena al collo con scritto boss. Boss, vabbè, ma allora qual è il problema? Ma non ho nessun problema, ho detto solo che ha una catena al collo grande con scritto boss. Vabbè, sulla ma cosa catena. C'entra? Comunque, ma va benissimo. Ragazzi, tutto fate nasce, quello che volete. Tutto nasce da dichiarazione di Cicciolina alla Zanzara, sentiamo. Sono 2000 nette. 2000 nette, a cosa ti serve 2000 nette di vitalizio che noi paghiamo la signora Staller? 2000 nette, cosa ci fai tu? Io ho un figlio da mantenere, visto che insomma ha 24 anni, sì, e non c'è lavoro in Italia per un 24enne, non c'è lavoro. Il padre è milionario, non Ludwig, non fammi parlare, please. Ma il padre non gli dà un euro, non gli dà un euro il padre? Io se fossi miliardario come Koons, io stai pur tranquillo, avrei detto, caro figlio mio, tieni, ti regalo una piccola casetta. Invece lui è un cazzo? Invece è un cazzo. Quanti soldi dà sto ragazzo? Quanto? Lascia stare. Oltretutto un bellissimo ragazzo, Koons. e i reality in Italia li fanno, si chiamano le mezze seghe per i reality, sì. Invece Ludwig è un bellissimo ragazzo, ancora non si sa, forse perché è figlio della Staller. Ma scusa, ma perché non lo fai studiare invece di mandarlo ai reality sto ragazzo di 24 anni? Sì, scusami. No, questo sarebbe meglio. Mio figlio studia. Ho capito, perché deve andare a reality per forza? Perché fa delle bellissimi quadri, disegni. Pure, sì, ma perché lo vuole mandare, lo vuoi mandare a reality? Non ho capito. Perché voglio farla guadagnare dei soldi. Allora, e fin qui la signora Staller, la signora certo. Staller, che viene messa in mezzo naturalmente da altri figli di personaggi famosi, la solita compagnia di giro della signora D'Urso, c'era anche l'avvocato, nonché compagno forse della signora Staller, il Di Carlo, c'era Pacci. Sentiamo la signora Staller. Sentiamo. Non è proprio così. Ma chi è il giornalista che ha scritto queste cose? Non lo so, è uno... Beh, aggiungono non è vero? Delle cose. Si Beh, dicono delle menzogne? Beh, se sappiamo... Non è esattamente riportata bene. Sono le tue dichiarazioni, mi dicono che sono le dichiarazioni di mamma di, no. di Ascolta, radio? Io ho detto che... È dichiarato in radio questo o no? Io prendo 2000 euro di vitalizio nette al mese, sì? Per cui in questi soldi lo mantengo anche mio figlio, è anche giusto. Smentisci non, tu quello che io non me la ricordo che ho fatto, perché si sa che la zanzara non si accavallate di nuovo Ilona, si sa che la zanzara quando si parla si rigira. Ma lei che mi porta il contratto Ilona, ascoltami, le hai dette o non le hai dette queste cose? Io non me la ricordo, possibile che l'ho detto. Possibile che l'ho detto a Staller, non c'era un pelicoglioni però, cioè, perché hai detto quelle cose, l'abbiamo sentite, adesso si rigirano le cose, non si rigira un cazzo. Hai detto quelle cose lì, ma hai detto delle cose spontanee, per cui non ci venire a rompere il cazzo semplicemente perché adesso no, perché qualcuno sì. ti ha criticato, dai. Comunque, da quel momento in poi cosa succede? Ma vogliamo sentire il mitologico figlio prima di fare sì. di sentire Facci contro Di Carlo, il mitologico figlio della Staller. Sentiamo, Ludwig Kunz, come cazzo si chiama, Kunz, che c'ha un nome talmente come dire, Ludwig Kunz, che poi parla in romanesco, è pazzesco, c'è un contrasto incredibile, senti. Ludwig, io ti credo, ma queste cose mamma mi ha dette. Ora è stata cretina mia madre. Oh, che la mamma ha confessato e detto di prendere 2000 euro netti al mese e siete qua a chiedere che cosa? Posso saperlo? No, io sono venuto in trasmissione per vedere Barbara. Te che per vederla. Ok, numero uno, sono venuto in trasmissione per vedere Barbara, stupendo. Vabbè, in tutta questa cosa meravigliosa, a un certo punto Ludwig sì. Kunz dice mio padre è miliardario, perché non dovrei studiare? Senti Kunz. E mio padre è miliardario, essendo miliardario vuole che studio, quindi perché non dovrei studiare? Cioè è una cosa grave studiare? Vabbè, Facci contro Di Carlo, a un certo punto si attaccano Facci e l'avvocato di Cicciolini. L'avvocato. Intanto si è parlato di vitalizio e non riesco a comprendere il motivo dell'attacco nei confronti di Ludovic o di Lona Staller riguardo al vitalizio. Se il signore con la giacca a quadretti e alla fantoziana si gira gentilmente di modo tale che può in modo tale che modera anche i termini nei confronti di quel ragazzo bassino che è umiliante. Bassino che deve stare lei che già è bassino. E si deve tranquillizzare un attimino, che lei si deve stare tranquillo, perché lei non è nessuno per fare delle domande a quel ragazzo lì e lui non è tenuto a rispondere a lei perché non è un processo inquisitorio. Quindi si ridimensioni e si sieda gentilmente se si vuole sedere, se no stia anche in piedi così. A un certo punto Facci si alza e si avvicina al signor Di Carlo mettendogli le mani in faccia. Naturalmente. No, aspetta, no, però Facci, non iniziamo così. Fermi, oi, vado in pubblicità. Vado in pubblicità, pubblicità. Mi può venire. Pubblicità, Fusi. Se io non esistere più. Vabbè ragazzi, comunque detto questo, secondo me ha commesso un errore facile, perché uno può essere si anche sarà fatto prendere un po' la mano, ma però su, se uno è schifato da quello che dice una persona, se uno non ne può più eccetera, non è che ti alzi e gli vai a menà. No, o comunque si è avvicinato un attimo, si è avvicinato, insomma, e secondo me se non l'avessero diviso gli avrebbe menato. Ma non so, ma guarda che l'ha detto anche a me che aveva sbagliato, sì, cioè, ma infatti anche a me, però cioè, insomma l'ha detto anche a me, mi sono commesso un errore io perché non ci ho visto più. Sì, ma sicuramente commesso un errore. Ok, ma se ti avessero messo le mani in faccia, cosa avresti fatto tu? Semplicemente perché quell'avvocato gli sta sul cazzo, dai, su. No, perché quell'avvocato, chi è l'avvocato? Di c'era Carlo. Un avvocato in studio? Sì, l'avvocato di Carlo, sì. L'avvocato di Carlo? Oh, sì, ma ragazzi, esistono di pure Carlo. Gli sì, no, per carità, va bene, va bene, va bene. Allora, dove andiamo? Andiamo a Marco. Andiamo a vedere cosa scrive il quotidiano Libero. No, Marco Milano, no, no, dai, no, ma sempre sentire le cose, libero. Dai, Marco Milano, dai. Quotidiano Libero. Vai. Pronto? Dimmi, dimmi. Ascolta, io avrei una soluzione se tu mi dai l'indirizzo di quello della masseria. L'indirizzo perché della masseria qui è abbastanza pubblico, credo. Vabbè, non l'ho visto io il programma delle Iene, perché abbiamo qui un collega che fa disinfestazioni per le aziende, molto radicali, per cui glielo manderei giù, facciamo una colletta nei quali glielo mandiamo. Lui cosa fa? Entra nelle aziende, sigilla tutte le aperture, con dentro ovviamente tutti gli insetti, sì, gli dà un colpo di persone, gas, e dopo le apre dopo tre giorni, capito? Parlando, però stiamo parlando di persone. Dice Parenzo che stiamo parlando di persone, cioè. Ma Parenzo, lascialo perdere, che abbiamo già detto, lascialo perdere, no? Abbiamo già detto, chi l'ha detto? Crede. Chi l'ha detto? Non ho capito. Abbiamo già tutti detto quelli chi di prima, lascia perdere Parenzo che fa solo casini. Ma che vuol dire che fa solo casini? Non ho capito. Ti danno una garanzia. Sta dicendo una cosa agghiacciante, cioè di trattare quelle persone che hanno abusivamente occupato la masseria come fossero degli insetti. Questo lei sta dicendo. Sì, mi sembra abbastanza chiaro. Lei è un criminale. Lei non ha un collega, lei è un criminale. Con questa voce anche apparentemente pacata da banalità del male, lei è un criminale. Criminale, perché tratta questi come fossero delle tarme, no? Come fossero delle sale tarme. Sì, fuori dalla metafora della disinfestazione, eccetera, eccetera. No, infatti non c'è metafora. Lei pensa sul serio che bisogna fare un'opera di disinfestazione con le persone dentro, cioè, che ne so, spruzzare del liquido. Le persone le allontaniamo. E come, allora, se si allontana, non c'è più bisogno di fare un'operazione di disinfestazione. Si è ipocrita, vada fino in fondo a questo ragionamento. Che è un disastro pieno di toppi di schifo. A me lo dice, proprio. Bisogna sgomberare la seduta stante la masseria subito, immediatamente, infatti, con le forze dell'ordine, senza aspettare nessun tipo di provvedimento. E bisognerebbe andare. Ma io farei una disinfestazione totale di quella masseria prima di metterci le mani. Lei è un cretino. La disinfestazione se la faccia al cervello suo, anziché trattare le persone che pure sbagliano e che sono dei criminali come delle tarme da trattare, da metterci il veleno, chiuderle dentro e metterci il veleno. Si vergogna no, di quello che ha detto. Io lei, chiudo Michele l'azienda. Da Bari. Lei faccia Michele pace da col cervello. Michele. Pronto? Da Bari. Vai Michele, dimmi. Insetti, come gli insetti. Finalmente la possibilità di parlare apparenze e dire quanto è stupido e rincoglionito. Buonasera, buonasera e benvenuto. Ma com'è? A quest'ora è andato via Parenzo già. Dato via Parenzo, è arrivato per parlare con questo cretino, dice lasciato telefono qui, parla con miserabile stronzo col nuto, con molle che si diverte con quattro persone. Sarebbe bello se tu andassi a comprare un bel agnellino che hanno tolto alla sua mamma, perché sono sicuro che non hai mai sentito piangere un agnellino. Sarebbe sono molto sicuri. Bello non se lei tornasse vegano a casa e non trovasse sua e magliettina compri, con quattro persone compri, che diverte. Ma a rapire, ti ci devi trovare tu. Ma scusa, adesso non ho capito bene e il collegamento. Torni a casa, devi trovare pure la casa occupata dagli zingari. Non ho capito che c'entra questa cosa con gli agnelli, non ho capito. Beh, perché tutto gli deve capitare per provare ciò che significa. Quando va a comprare un agnello si deve trovarne in mezzo a una rapina. Ma che c'entra? Che c'entra? Ma perché non ho capito? A casa deve trovare pure a casa occupata da va bene, Michele, deve succedere. È molto goloso di agnello. Dottore, goloso agnello, sempre fa più parlare sempre. Anche la tua ipocrisia veramente. Ma su che cosa? Agnello scottadito, dottore, mangia due piatti, dottore, di agnello scottadito, a me lascia solo costicina. Hai ripreso l'ascoltatore che diceva che la Boldrini doveva ritrovarsi in mezzo agli uomini di colore, ovviamente ha sbagliato i modi, e poi con Rocco Siffredi ti riverti a dire che Rocco Siffredi darebbe due botte? alla Boldrini, lì è tutto lecito. Rocco Siffredi può dire che la se la deve inchiappettare alla Boldrini. Mentre non ha detto questo, ha detto che la farebbe partecipare a un film porno, è diversa la cosa. E ovviamente... ma che cazzo di differenza c'è? Ma l'ipocrisia. No, c'è una grande differenza. Dottore ordinato per Pasqua, 8 costoletti agnello, cucinale, scottadito, licetta, 2 cucchiai olio extravergine oliva, 2 spicchi di aglio, 1 lametto lo smalino, sale, pepe nero macinato. Per due persone, 8 cotolette di agnello, dottore, sempre far preparare a me che scogliete che cosa dito. Ma non ho capito qua. Qual è il problema di mangiare gli agnelli? Non ho capito qual è il problema. Qual è il problema? Non è il problema, non c'è se si mangia un animale, ma non appena nato. Avete messo ma gli agnelli sono gli agnelli, punto e basta. Gli agnelli sono gli agnelli. Ma che stronzata è? Ma che differenza c'è se li mangi prima o li mangi dopo? Amico mio, ma che cazzo dici? Ma facciamoli fare una vita normale. Sì, una vita normale, uguale a quella nostra, ma non rompere i coglioni, dai, su. Anche tu sei malato in testa con questa filosofia animalista del cazzo che ci vuole instillare nel cervello che gli animali sono come noi. È una follia. Noi siamo superiori. Com'è che loro dicono? Com'è? Oddio, mondo antropocentrico. Adesso finisco con una parola. Sì, è vero. Il mondo è incentrato sugli uomini. Fatevi una ragione. Gli uomini al centro del mondo, nel bene e nel male. Vaffanculo. Ci sentiamo domani. Ciao. Lei è un insultatore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Asmodeo, vai via. Radio 24, libera la voglia di fare.